24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:20 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 come di consueto. Ci trovate anche su Facebook con 24 mattino e saluto anche il nostro Filippo Aureggi oggi in regia. Allora, di che parliamo nel nostro sondaggio? La notizia l'abbiamo data ieri in apertura di rassegna stampa di questa vicenda che viene da Palermo, una professoressa che per fermare un episodio di bullismo ha fatto scrivere all'alunno sul proprio diario 100 volte «sono un deficiente». E per questo è stata condannata a un mese di carcere. Il reato è abuso di correzione. Secondo voi, di mezzi di correzione, secondo voi è giusta questa condanna? Ha fatto scrivere all'alunno «sono un deficiente» per 100 volte ed è stata condannata una professoressa. Votate su Radio24.it, ne parleremo alle 8:30 e da cosa iniziamo la lettura dei giornali in edicola. Fujitsu supervaluta il tuo vecchio server fino a 600 euro se passi a Primergy. Cambia server.it. Vi presenta In Primo Piano. In questo venerdì 18 febbraio le aperture dei giornali sono veramente diversificate, ognuno fa una propria scelta. Il Sole 24 Ore: deroghe UE per il rilancio, torna la voglia di impresa, nel 2010 create 72.530 aziende in più. Il Corriere: parte la riforma della giustizia, oggi in Consiglio dei Ministri. Repubblica invece ha le rivelazioni di nuovi documenti di Wikileaks, il giudizio USA in 4.000 rapporti segreti, Berlusconi danneggia l'Italia. Mentre il giornale gongola sulla situazione difficile per Fini in mutande, così anche Libero. Il complice di Fini, bocchino amaro, questo è il titolo di Libero. E anche per il Fatto Quotidiano sul problemi di future libertà, li riprende uno a uno, il partito di Fini perde pezzi e lui accusa Berlusconi. Anche per il Messaggero, fuga da future libertà, l'ira di Fini. E così la Stampa, uguale, fuga da future libertà, la rabbia di Fini, colpa dei soldi del Premier. Mentre per l'Unità, l'imputato in Vaticano, oggi l'incontro di Berlusconi per la celebrazione dei patti lateranensi, l'incontro ufficiale di Stato in Vaticano. Io da cosa voglio partire? Delle segnalazioni. La prima la troviamo su tutti i giornali e noi ne avevamo già parlato, attenzione, perché riguarda i test antidroga in arrivo. Ormai la proposta sarà all'esame delle regioni, medici e infermieri, arriva il test antidroga. Per il governo devono essere inserite tra le cosiddette categorie a rischio medici, infermieri e anche, per la verità, ostetriche, cioè tutte quelle persone che sono al contatto con il pubblico. E il governo, per esempio, lo leggo dalla Stampa, pagina 29, le considera categoria rischio e tra l'altro attenzione, perché ha detto il capo del Dipartimento, Giovanni Serpelloni, capo del Dipartimento al Ministero per quel che riguarda la prevenzione alla droga, si pensa di estendere l'esame anche agli insegnanti. Io immagino già le polemiche, c'è qualche sindacato già sul piede di guerra, dice è sbagliato, mentre il sottosegretario Giovanardi dice sono tutte misure prese per salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini, sono professioni che mettono a rischio la sicurezza. Insomma, dopo i piloti di aereo, i conducenti di mezzi pubblici, macchinisti, tassisti, ora tocca subito nell'immediato pare a medici, infermieri e ostetriche. E poi chissà anche agli insegnanti presto. Beh, questo è un tema che farà molto molto discutere, i test antidroga. E poi la seconda segnalazione la voglio dare da Libero, a pagina 15. Detenuti a guardia delle scuole. Bologna vuol sfidare la sorte. Si tratta di un'iniziativa proposta dal comune di Bologna, che lo sapete tra l'altro è commissariato, c'è un commissario straordinario. La decisione è quella di utilizzare alcuni detenuti, quelli per i quali la condanna prevede il lavoro di pubblica utilità in settori particolari, immagino non detenuti pericolosi, che vengono trasformati in vigilanti per la sorveglianza di parchi e scuole. Questo a Bologna, accade per la prima volta in Italia, racconta Libro, a Bologna, dove ieri è stata approvata una delibera commissariale che fissa oltre una ventina i cosiddetti condannati al lavoro. Per il commissario di Bologna, Anna Maria Cancellieri, è un'iniziativa che va nel senso giusto. Per esempio è stata fatta analogamente a Parma, quando lì sempre lei era in veste di commissario. Ci occupammo della pulizia del greto del fiume utilizzando l'ausilio dei detenuti, fu un'operazione di grandissimo respiro. In questo caso però non si tratta di pulire un fiume, ma si tratta di affiancare insieme ad assistenti sociali questi detenuti che dovrebbero vigilare sulle scuole e sui parchi, e tanto che qualcuno come Alessandra Mussolini, che è a capo della Commissione Bicamerale per l'Infanzia, dice: trovo un esperimento diabolico, e poi dice che se li tenessero in procura sti detenuti, magari tutti eventi a sorvegliare Ilda Boccassini. Vabbè, insomma, a parte la battuta, fa suscitare polemiche e dibattito questa iniziativa del Comune di Bologna di destinare alcuni detenuti a guardia delle scuole affiancate da assistenti sociali per vigilare su studenti e parchi. Ma scrive Libero, è subito polemica, tutto così, tutto polemica in Italia. E allora ci fermiamo per la pubblicità e poi ripartiamo dalla politica. Sicuramente la notizia politica del giorno è quella della crisi del partito di Fini, che accusa i nostri se ne vanno via perché la causa è il potere finanziario di Berlusconi. In primo piano. E allora la notizia politica del giorno sicuramente è la, almeno analizzata dai giornali, è le difficoltà che sta vivendo Fini con il suo futuro e Libertà, che perde pezzi letteralmente. Tanto che oggi bisognerebbe iniziare a leggere un giornale che non è certo il giornale tra i più diffusi in Italia, vale a dire Il Secolo d'Italia, cioè l'organo di Future Libertà, perché Gianfranco Fini scrive in prima pagina una lettera. Sarebbe davvero inutile negare l'evidenza, scrive il Presidente della Camera. Il progetto di Future Libertà vive un momento difficile, sta attraversando la fase più negativa da quando ha mosso i suoi primi passi. Ovviamente tutto questo fa gioire i sostenitori del Presidente Berlusconi, che già immaginano di allargare la fragile maggioranza di cui godono alla Camera. Ipotesi verosimile, vista l'aria che tira nel palazzo e le tante armi seduttive di cui gode chi governa e dispone di un potere mediatico e finanziario che è prudente non avversare direttamente. Eccola qua, l'accusa di Fini, che rimbalza poi su tutti gli altri giornali: il potere finanziario del Premier è alla base delle fughe da parte di Futuro, di alcuni esponenti di Futuro e Libertà. E l'accusa, insomma, è molto semplice: se li compra. E tanto che questo è il tema che viene un po' sviscerato da tutti i vari giornali. Prendo il Manifesto, per esempio, Valentino Parlato, uno dei fondatori del Manifesto, in prima pagina: il potere dei soldi. A scuola, all'università, ci spiegavano che nello Stato c'erano tre poteri: il legislativo, cioè il Parlamento, l'esecutivo, cioè il governo, e il giudiziario, cioè la magistratura. Ma nelle nostre università continua un bel silenzio sul potere dei soldi, il quarto potere che non sta scritto nella Costituzione ma che c'è e decide. Ecco qui, scrive Parlato, la ribellione dell'antagonista Fini è agli stracci. Il potere legislativo è in vendita, oggetto di acquisti singoli e di gruppo. Sarebbe bello e democratico conoscere il prezzo dei singoli parlamentari. I soldi, pensiamo ai soldi, pensiamo a un Silvio Berlusconi senza denari, sarebbe già in galera per non so quanti reati, anzi non sarebbe neppure in tribunale, sarebbe stato cancellato. Rischio di apparire paleomarxista, conclude Parlato. Ma immaginatevi un po' come andrebbero le cose se Berlusconi fosse povero o avesse anche un buon stipendio e basta. Provate a immaginare. Insomma, questo tema dei soldi rimbalza un po' ovunque. Tra l'altro sulla prima pagina del Manifesto c'è la vignetta più bella su Fini, la fa Vauro. C'è un Fini in una landa desolata, si accorge che è rimasto solo e dice: chi mi ama mi segua. Mi segua, ho detto. Mi segua! Ehi, ma dove cazzo state andando? Questo è Fini, un po' disperato. Sul Fatto Quotidiano parla Fabio Granata, uno dei fedelissimi di Fini, che dice: ho visto Baldassarri, un altro finiano in procinto di lasciare forse, che se ne andava a cena a Palazzo Grazioli. Il problema è quello di avere contro un potere smisurato. Italo Bocchino parla Repubblica dicendo: è una partita complessa, se qualcuno non ha lo stomaco forte e se ne va ne prendiamo atto. Transfughi sono a caccia di poltrone, mentre dall'altra parte i giornali che per mesi hanno combattuto contro Fini in prima linea, soprattutto Libero e Il Giornale, gongolano. Il Giornale titola: Fini in mutande, mezzo partito lo abbandona, perfino l'ex fedelissimo Urso verso l'addio. Oltre ai pezzi, il presidente della Camera perde anche la testa, insulti al Premier e ai deputati. Mentre Libero: Bocchino amaro, il complice di Fini con il presidente della Camera, ha distrutto Alleanza Nazionale, ha spaccato la maggioranza, ha soffocato nella culla Future Libertà. Ecco, scrive Maurizio Belpietro, la storia incredibile di un mezzo leader che ha perso tutto tranne la propria arroganza. Tra l'altro, tra Libero e Bocchino c'è anche una querela in ballo, con Bocchino che ha querelato il Libero e anche il Giornale per stalking, questo il reato, cioè persecuzione. Insomma, il tema politico è quello di gente che va, gente che viene, gente che torna, gente che lascia i partiti. So che non è un tema che appassiona tantissimo, ci sono altri problemi molto molto più seri che noi italiani affrontiamo, ma la politica fa registrare questo. Per esempio, fa registrare il ritorno di Paolo Guzzanti, colui che ha scritto Mignottocrazia, colui che ha attaccato Berlusconi, il suo stile di vita, ora in qualche modo ritorna da Silvio Berlusconi. Guzzanti va con i responsabili, cioè questo gruppo di responsabili, ancora con Silvio, ma in modo indiretto. Viene intervistato da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, dice: allora va bene, ti autorizzo a scrivere che il sottoscritto Paolo Guzzanti, giornalista e deputato liberale, lascia il gruppo parlamentare misto per aderire al gruppo Iniziativa Responsabile. Ma torni berlusconiano? Chiede Fabrizio Roncone. Ma niente affatto. Ma dai, su. Senti, io speravo che il Terzo Polo potesse davvero essere un'alternativa al berlusconismo, però hanno avuto quella bella trovata di annunciare un'alleanza col PD. A quel punto, beh, tu lo capisci. E vabbè, dice, insomma, torni berlusconiano, torno a dare sostegno all'attività di governo, quindi torni a Berlusconi. Indirettamente sì. Però, dice, non smentisco nulla di Mignottocrazia, di quello che ho scritto, anzi un libro assolutamente che ha precorso i tempi, assolutamente illuminante, perché ha scritto prima ciò che è successo e tutti si sono accorti che è successo dopo, però torno tra i responsabili. La situazione politica, insomma, è in gran caos, così lo certifica anche Giovanni Sartori nell'editoriale del Corriere della Sera in prima pagina. Come perdere le elezioni, questo è il titolo, le scelte delle opposizioni. Scrive Sartori: se fossi a teatro non mi sarei mai divertito tanto, ma non sono a teatro e non mi diverto per niente. Lo spettacolo allestito da Berlusconi & Co. è allucinante, ma anche lo spettacolo offerto dalle opposizioni è desolante. Piluccando fior da fiore non si era mai visto nemmeno in Italia che ben 315 parlamentari votassero e accreditassero la favola anche per un bambino di 6 anni, di un Berlusconi che crede davvero che la carnosa Ruby fosse una nipote di Mubarak e che lui era intervenuto telefonando a notte fonda a questura di Milano per evitare un incidente diplomatico con l'Egitto. Ma se Berlusconi non ride, leggo da più avanti Sartori, le opposizioni possono solo piangere, chiedono le dimissioni e quindi nuove elezioni, ma sono davvero in condizioni di affrontarle con una ragionevole speranza di vincerle? Oggi come oggi direi proprio di no, per la semplicissima ragione che sono opposizioni al plurale, spesso profondamente divise anche al proprio interno, che hanno poco di unitario da proporre. Di recente, il recente congresso dei Finiani ha peggiorato questo quadro, rivelando che anche in quel partito regna la zizzania. Insomma, Sartori dice: uno spettacolo un po' desolante, se fossimo a teatro sarebbe bello, ma si tratta della politica italiana e dunque di ciò che fa governare un paese. A proposito di governare, Berlusconi l'atteggiamento è proprio questo: intanto incassa diciamo con gioia quelle che sono le difficoltà dei finali, tanto che sul Corriere della Sera, nell'articolo di Paola Di Caro a pagina 3, viene definito un Berlusconi a cui viene restituita energia proprio dalle situazioni difficili di Fini. Per La Stampa l'ha definito è un fallito, per il Corriere invece: ma di che parla Fini, potere mediatico, finanziario, non ha più il gruppo al Senato e se la deve prendere con se stesso, altro che con me. E poi l'atteggiamento di Berlusconi è questo: mi concentrerò solo sul lavoro da fare, questo dal punto di vista del governo. Infatti oggi alle 9.30 c'è il Consiglio dei Ministri, questo, su questo punto è il Corriere della Sera, parte la riforma della giustizia, il Consiglio dei Ministri nel quale un po' a sorpresa, con una notte insonne costata al Ministero della Giustizia, al Ministro Alfano, che stamattina alle 8 riunisce il suo staff, dunque in questi minuti, per le ultime limature, per presentare che cosa? La tanto annunciata e poi rimandata, ma che oggi arriverà in Consiglio dei Ministri, riforma della giustizia. Prevede norme sulle intercettazioni, prevede il doppio CSM, uno destinato ai pubblici ministeri, uno per i magistrati giudicanti, la separazione delle carriere, rispunta la questione della responsabilità civile dei magistrati, nel pacchetto giustizia approderà anche alcune correzioni riguardo alla Corte di Cassazione, insomma la tanto più volte annunciata e ora verrà presentata riforma della giustizia, oggi verrà presentata in Consiglio dei Ministri. Insomma, tutta la vicenda di Ruby, dell'inchiesta, oggi un po' in secondo piano, un Berlusconi che viene dato dalla stampa addirittura con gongolante, e tra l'altro c'è una novità di Berlusconi che viene annunciata dalla stampa e anche dal giornale, per la verità. Ora tutti in piazza. Berlusconi sta pensando a una manifestazione portando 1 milione di italiani in piazza, questo il 26 marzo. La data ha un significato simbolico, scrive Amedeo la mattina sulla stampa, perché 17 anni fa, il 27 e 28 marzo del 94, Berlusconi vinse le elezioni per la prima volta. Questa volta si è deciso il 26 perché cade di sabato, dunque sarebbe scelta questa data, e secondo il giornale il cavaliere chiama i suoi in piazza il 26 marzo, pensa a una manifestazione di massa che dovrebbe essere una manifestazione, almeno questo leggo dal giornale, per aprire la campagna elettorale e puntare il dito contro i PM politicizzati. 26 marzo, non sfugge che insomma dopo qualche giorno, vale a dire il 6 di aprile, c'è il giudizio immediato nel caso Ruby. Chissà se Berlusconi avrà in qualche modo un contraccolpo. Da quello che pubblica Repubblica, pagina 2 e 3, è l'apertura del giornale, è un'esclusiva di Repubblica e dell'Espresso. Berlusconi danneggia l'Italia, così viene titolato. Sono 4.000 nuovi file segreti delle ambasciate, dei rapporti tra ambasciatori nel mondo e Washington, che vengono svelati da WikiLeaks e che sono, di cui è entrata in possesso Repubblica. L'Italia vista dagli USA, con il premier Berlusconi il paese è ormai in declino. Ecco qui, sono vari report, vari cables come vengono definiti, uno per esempio dell'allora ambasciatore Ronald Spogli qua in Italia, che scrive a Washington, al Dipartimento di Stato, così: il premier Silvio Berlusconi, con le sue frequenti gaffe, la scelta sbagliata delle parole, ha offeso nel corso del suo mandato quasi ogni categoria di cittadino italiano, ogni leader politico europeo, mentre la sua volontà di mettere gli interessi personali al di sopra di quelli dello Stato ha leso la reputazione del paese in Europa, ha dato sfortunatamente un tono comico al prestigio dell'Italia in molte branche del governo degli Stati Uniti. E questo è il febbraio del 2009, Ronald Spogli, l'ambasciatore americano nominato dal presidente Bush, si congeda dal suo mandato scrivendo questo cable con queste parole molto dure, che dovevano essere riservate, ma WikiLeaks le ha rivelate a Hillary Clinton. Insomma, un'immagine di un paese in declino, anche se però l'America sostanzialmente dice, però, questo si evince da questi cables, però fa comodo tenere Berlusconi. Perché? Cosa può incassare l'America da questo governo? L'ambasciatore Spogli è esplicito: l'Italia ci permetterà di consolidare i progressi fatti faticosamente dai Balcani negli ultimi 20 anni. Le loro forze armate giocheranno un ruolo importante nelle operazioni in Libano e Afghanistan. Sul territorio italiano sarà strategico per l'Africom, un organismo di difesa per coordinare gli interventi militari in Africa. il comando a Stoccarda, ma bombardieri di stanza a vicenda nella base del Molin. Se useremo una forte pressione, l'Italia eserciterà la sua influenza economica in Iran a Teheran. E dunque, insomma, difficoltà da questi cables, o meglio, dei giudizi espliciti negativi, però Berlusconi fa comodo all'America. Questo si legge su Repubblica. Ora il traffico. In primo piano. E intanto oggi Berlusconi va a incontrare in Vaticano per la cerimonia annuale per l'anniversario dei patti lateranensi e si era parlato ieri di questo incontro, anche l'importanza di questo incontro. Perché Carlo Marroni scrive a pagina 17 del Sole 24 Ore: patti all'insegna della prudenza, cioè non ci sarà alcun faccia a faccia tra Berlusconi e Bertone, segretario di Stato, vale a dire ci saranno solo incontri bilaterali e temi istituzionali. Anche per il Corriere, niente faccia a faccia tra il Cavaliere e Bertone, incontri collegiali come prevede il cerimoniale. Perché la questione, insomma, è la vicenda sicuramente Ruby e anche i malumori di una parte del mondo cattolico, per cui tutti guardano con grande attenzione a quello che succede oggi in questo incontro per i patti lateranensi. La prima pagina del Sole 24 Ore, sempre per quel che riguarda invece la politica, insomma l'economia, la ripresa, è dedicata alle deroghe UE per il rilancio. C'è stato un vertice per la crescita da Tremonti con 9 ministri per mettere a punto il pacchetto di misure per la crescita che verrà presto portato a Palazzo Chigi, non oggi comunque nel Consiglio dei Ministri, per dare il via al programma nazionale di riforme che dovrà essere presentato poi entro aprile in sede Ecofin. Tra le proposte presentate a Giulio Tremonti e ai colleghi c'è la richiesta di deroghe alle norme europee sugli appalti per consentire il rilancio dei cantieri nel sud. Tutti i dettagli poi da Isabella Bufacchi, li trovate a pagina 3, accelerano infrastrutture e sud. In questo vertice di ministri sul piano per la crescita si è parlato anche di banda larga. Ma io vorrei andare invece sul Corriere della Sera, dove viene dato ampio risalto a una vicenda che rischia di diventare una vicenda esplosiva, e già qualcosa c'è sui giornali. Abbiamo sentito anche nel GR, tra l'altro coinvolge il più albergo Trivulzio, corsi e ricorsi storici per chi è di Milano lo sa, ma insomma anche per chi magari ha seguito la cronaca giudiziaria, dall'arresto dell'allora presidente del più albergo Trivulzio, Mario Chiesa, nacque Tangentopoli nel 92, il 17 febbraio, da una vicenda di tangenti, di mazzette. Ebbene, dal più albergo Trivulzio rischia di venire fuori un'altra vicenda che sta facendo già tremare mezza Milano. Si tratta di una serie di immobili che sono in possesso del più albergo Trivulzio e che sono stati e che sono in affitto a prezzi stracciati, questo a Milano, a persone che sono anche persone politici, giornalisti. Una lista che fino ad oggi è rimasta segreta e che verrà invece svelata oggi alle 16. Questo perché Barbara Ciabò, che è una finiana, presidente della commissione demanio del comune di Milano, è riuscita ad ottenere, e fa un'intervista al Corriere, dice: ho aperto il caso ma c'è omertà. È riuscita a ottenere questa lista che fino a questo momento il più albergo Trivulzio deteneva in maniera molto segreta e custodiva gelosamente. E allora cominciano a uscire i nomi, i loro nomi stanno venendo a galla, colpi di indiscrezioni giornalistiche. L'elenco ufficiale però è finora è custodito appunto gelosamente, scrive il Corriere, nel più albergo Trivulzio. Ma ecco i primi nomi, tanto che preventivamente la giornalista Cinzia Sasso di Repubblica, e che è anche la compagna di Giuliano Pisapia, il candidato per la sinistra al comune, al sindaco al comune di Milano, scrive una lettera al Corriere: io, compagna di Pisapia, caro direttore, sono la compagna di Giuliano Pisapia. Abito in un appartamento di proprietà del più albergo Trivulzio. Siccome sento il ronzio delle api intorno al miele, essendo chiaramente il miele il candidato sindaco e non io, e siccome ho visto che alcuni nomi sono stati pubblicati, preferisco violare la mia privacy. Vivo da 22 anni in quell'appartamento. Il primo contratto di affitto era nell'89, quando ancora non conoscevo Giuliano, e stabiliva che oltre all'affitto, alle spese ordinarie, alle spese di manutenzione e ristrutturazione fossero a carico mio. L'ultimo rinnovo prevedeva la formula 4 anni più 2 e un canone di locazione calcolato secondo quanto stabilito dall'accordo locale per la città di Milano, insomma tutto, spiega tutto il dettaglio. Poi dal 2008 il mio contratto è scaduto, nel frattempo ho trovato un'altra casa. Ed ecco infatti che subito Giornale Libero ci si fiondano. Libero, il candidato PD di Milano cade su Affittopoli. La compagna di Pisapia, giornalista di Repubblica, sta in una casa del più albergo Trivulzio, in centro, a canone dimezzato. Ed ecco il giornale: affitti facili. La compagna di Pisapia vive in una casa pubblica da 23 anni. In ogni caso, oggi ci saranno altri nomi. Pare che c'è già, nei nomi già che emergono, il presidente di Metro Web, Guido Manca, consigliere comunale del PDL, sarebbe tra i beneficiari di una casa del più albergo Trivulzio. Si era sparsa la voce dell'ex assessore regionale Massimo Corsaro, che dice: io non c'entro assolutamente nulla. Tra i casi più chiacchierati c'è anche quello dell'assessore regionale alla casa, Domenico Zambetti, proprietario di un appartamento acquistato dal più albergo Trivulzio a 540.000 euro. Ma ho vissuto nell'appartamento in affitto dal 92, l'ho comprato 4 anni fa. E questo dice l'assessore: non ho avuto prezzi di favore, né corsie preferenziali. Insomma, questa lista verrà resa nota nel totale oggi. Io che dire, devo fermarmi? Sì. Mi devo fermare, ricordo il tema del nostro sondaggio che è sviluppato anche su Avvenire, che la definisce punizione eccessiva, condannata docente. Parliamo di scuola, di questa docente che per frenare un episodio di bullismo ha fatto scrivere a un allievo 100 volte sul diario «sono un deficiente». La professoressa è stata denunciata dal padre del ragazzo, è stata condannata a 1 mese di carcere. Una condanna giusta secondo voi oppure esagerata perché voleva rieducare questo ragazzo? Il GR 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:20. Voglio salutare per la nostra intervista oggi il sindaco di Racalmuto, in provincia di Agrigento, Salvatore Petrotto. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Racalmuto, città natale di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia. Però lei, sindaco, si è messo un po' nelle polemiche perché ha deciso di conferire il premio Leonardo Sciascia, perché lei è presidente della Fondazione Sciascia, a chi? A Silvio Berlusconi, ma non vuole essere anche una provocazione rispetto a ciò che sta succedendo. A Silvio Berlusconi. Il premio è premio Leonardo Sciascia per una giustizia giusta? Per una giustizia giusta, sì. E perché a Berlusconi la vuole dare? Guardi, io credo che su questi temi ci si è scontrati, e Sciascia in modo particolare, sin dagli esordi della sua attività, ma in modo particolare in alcuni frangenti. Posso citare delle sue considerazioni pubblicate sul Corriere della Sera il 7 agosto del 1983, piuttosto che Il Contesto o in altre opere, laddove si faceva riferimento alla necessità appunto di mettere mano a una riforma della giustizia. Beh, questo perché? Perché chiaramente non vorrei qua adesso citare il caso Tortora, sappiamo benissimo quale fu la battaglia condotta assieme ai radicali per difendere, diciamo, l'innocenza di Tortora, però se qualcuno vuole speculare rispetto a questa mia, tra virgolette, forzatura, dico semplicemente che c'è bisogno di un rispetto per la dignità delle persone. Ma mi sta dicendo che lei lo vuole intitolare a Berlusconi perché sente che Berlusconi sia un perseguitato dalla giustizia? Ma guardi, cioè, qua non devo essere io a dire queste cose. Chiaramente negli ultimi frangenti, voi un po' per le polemiche furenti innescate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a causa dei suoi attacchi, insomma, nei confronti della magistratura, probabilmente negli ultimi frangenti c'è stata un'accelerazione del processo, perché è quasi dire uno sberleffo. Volevi il processo breve, ecco, ti vediamo immediato, più che breve, immediato. Così si muore, no? Immediato. E quindi lei, insomma, lo vede un po' sulla graticola, sotto qualche attacco, ha detto: voglio dare il premio Sciascia a Berlusconi. I familiari di Sciascia non sono d'accordo. Lo so, io dico. Affinché, diciamo, voi sapete, c'è un'associazione, non so come si chiama esattamente, qualcuno salvi Caino, insomma, no? Nessuno tocchi Caino. Nessuno tocchi Caino. Che c'entra? Ma quella si batte contro la pena di morte. Guardi, io qua non siamo in queste, cioè, per fortuna non ce l'abbiamo noi la pena di morte. La pena di morte, anche se volendo scomodare sempre Cesare e i suoi personaggi preferiti, da Manzone a Cesare Beccaria, se vogliamo, per certe verso, se vogliamo fare veramente alla storia della colonna infame. E io credo che in Italia situazioni gravi se ne verificano. Guardi, vi faccio alcuni esempi. Nell'Agrigentino sono stati arrestati o sciolti per mafia alcuni consigli, arrestati dai sindaci consigli, e poi sono stati assolti. Insomma, lei dice c'è questa magistratura a volte prende esempi concreti. Il sindaco di Siculiana che è stato qui comune, è stato sciolto per mafia 4 anni fa, è stato assolto in questi giorni. Quindi i magistrati sbagliano, dice a volte. Senta, le devo chiedere questo. Lei era fino a pochi mesi fa coordinatore dell'Italia dei Valori in provincia d'Agrigento. Sì. Ha cambiato un po' parere, insomma. Allora, guarda, io su questi temi ho avuto sempre anche i miei scontri interni, li avevo anche all'interno dell'Italia dei Valori, anche perché spesso si predica bene e si razzola male, ecco. Ed è quello che credo succeda un po' ovunque, purtroppo, ahimè. E sicuramente bisogna fare un'attenta riflessione sui moralizzatori, non quelli, gli ultimi moralizzatori, mi riferisco a Fine o ad altri, sono vermi tutti dello stesso formato, no? Ma mi riferisco anche allo stesso Di Pietro, se vogliamo. Vabbè, insomma, ha litigato con Di Pietro. Ma lei andrà a Roma? Cioè, è vero che lei ha scritto a Scilipoti, uno che è uscito dall'Italia dei Valori, dicendo: per favore, se riesci, chiedi a Berlusconi se gli fa piacere questo premio. Se la mettiamo sotto il profilo della buttata o della provocazione, diciamo, fino a un certo punto ci sto, perché poi alla fine si vuole, io almeno il mio desiderio è quello di far sì che ci sia una riflessione attorno a questi temi, al di là delle polemiche e delle contrapposizioni strumentali. Ecco, mi pare, ho detto anche questa volta, con la scusa dell'ingombrante Berlusconi e del relativo utilizzo della clava giudiziaria per defenestrarlo definitivamente, credo che, e questo lo dico con molta sincerità, cito Sciascia, attenzione. Cita Sciascia. Sì, credo che sia rinato, semmai è morto il cosiddetto, e procedo ancora con un ulteriore affondo, e perdonatemi se cito sempre Sciascia, attenzione, testuale parole, il cretino di sinistra, ma mimetizzato nel discorso intelligente, nel discorso problematico e capillare, e si credeva una volta che i cretini nascessero soltanto a destra. Invece ci sono anche a sinistra i cretini. Come conclude Sciascia, cretini dai discorsi problematici, perché sono pericolosi, dice Sciascia, perché alla loro imbecillità si aggiunge il fanatismo. E guarda, queste cose lui le diceva nel corso di un... E lei ne vede tanti così, come li descrive? Di un comitato intellettuale per l'Europa delle libertà. Guarda, io sono convinto che qua mi sembra una partita di calcio, diciamo, allo stadio. C'è una campagna acquisti, si parla di grandi alleanze sì, politiche. Sì. Per cui bisogna abbattere, come si chiamava, nessuno salvi Caino, quella... nessuno tocchi Caino. Tocchi Caino, ecco. Come ho toccato Caino, devo morire, allora devo fare. Vabbè. Sindaco, io la ringrazio, vabbè, vi faremo sapere se ce la farà a intitolare a Berlusconi il premio Sciascia. A capire che una giustizia giusta, una riforma, serve a tutti i cittadini. E se l'ingombro è Berlusconi, beh, togliamocelo di mezzo, allora Berlusconi, ma facciamo le riforme, no? E però diamogli il premio. Grazie, sindaco, per essere stato con noi. Il sindaco di Racalmuto, Agrigento, paese natale di Leonardo Sciascia, vuole intitolare a Berlusconi il premio Sciascia per la giustizia giusta. Ci fermiamo, nel nostro sondaggio parliamo di scuola. Questo episodio di cronaca da Palermo: una professoressa, per reprimere un atto di bullismo, fa scrivere a un ragazzino di 11 anni "sono un deficiente", lo fa scrivere 100 volte sul diario, da firmare dal papà. Il papà la denuncia e la professoressa viene condannata a un mese di carcere per abuso di mezzo di correzione. Che ne pensate? È una sentenza giusta, oppure era un intento educativo, o era un intento troppo repressivo, quello della professoressa? Ne parliamo tra poco con i protagonisti. Votate su radio24.it se volete chiamarci, 800 24 00 24. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:34 minuti. Allora, parliamo nel nostro sondaggio di questo episodio di cronaca. A Palermo, una professoressa, per reprimere un atto di bullismo, un ragazzo di 11 anni fa scrivere per 100 volte sul diario "sono un deficiente". Viene denunciata dal padre, del ragazzino e è stata condannata a un mese, pena non definitiva, un mese di carcere per abuso di mezzi di correzione. Una sentenza, secondo voi, giusta? Questo vi chiediamo oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, c'è da dire che il 78% di voi per il momento dice di no, votate su Radio24.it, cioè la vede una sentenza molto molto esagerata evidentemente. La donna peraltro, la professoressa, era stata assolta in primo grado, ma c'è stato un ricorso della procura, è stata condannata a un mese di carcere. Ora ci sarà ovviamente la Cassazione. Dobbiamo dire che c'è chi dice è una sentenza educativa, c'è chi dice no, era un modo educativo quello che lei ha fatto, perché questo ragazzino aveva intimato a un compagno di classe, dandogli della femminuccia e del gay, di non entrare nel bagno dei maschi e siccome non voleva chiedere scusa, ecco questa motivazione. Allora scrivi per 100 volte sul tuo diario sono un deficiente e farlo firmare da papà, e papà si è arrabbiato. Che ne pensate? 800 24 00 24, se volete intervenire. Intanto io voglio salutare l'avvocato Sergio Visconti, avvocato della professoressa Giuseppa Valido, che è colei che insomma è stata condannata. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Allora, devo dire tra l'altro che noi abbiamo chiamato il padre del ragazzo, che ci ha detto intervengo molto volentieri, non ho problemi anche a parlare con l'avvocato, tanto non dobbiamo rifare il processo. In questo momento il cellulare è spento, il telefono fisso è staccato, non so, forse ci ha ripensato. Io, e questo lo devo dire per dovere di cronaca, se ci ascolta risponda pure, perché siamo qua in maniera pacata a discutere. Voglio salutare anche Marcello Dorta, insegnante, autore del celebre Io speriamo che me la cavo, anche commentatore sui giornali. Buongiorno Dorta, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, intanto, avvocato, detto che non dobbiamo rifare il processo qui, si fanno nelle aule dei tribunali i processi, detto che lei ricorrerà in Cassazione, comunque la professoressa che è in pensione non andrà in carcere, insomma, questo tranquillizziamo. Però, allora, sentenze, questa punizione, sono un deficiente, era così educativa oppure ha un po' esagerato la sua cliente? Mi venga consentita una brevissima precisazione. La frase scrivere non era sono un deficiente, ma sono deficiente. Non è una precisazione di lana caprina, risponde a una precisa scelta fatta dalla professoressa che, lontana da qualunque contesto difensivo, ha approfittato di quell'occasione, un'occasione che comprenderanno tutti essere ai limiti della drammaticità, un bambino che viene privato del diritto di andare in bagno da un gruppo, da una banda di suoi compagnetti, è una situazione allarmante. Bene, la professoressa ha approfittato di questa situazione per fare una lezione sul concetto di deficienza, e questo è documentale, è agli atti del processo. Vabbè, però, ripeto, questa è la difesa processuale. No, questi sono i fatti, proprio questo voglio rappresentare. No. E tant'è che la frase utilizzata non è sono un deficiente. Ma sono deficiente, esatto. Cioè ho dei problemi di deficienza, esatto. Ecco così. Però lei capisce che, non so, fare una lezione sulla deficienza, uno fa una lezione con gli allievi in classe, spiega che cosa vuol dire essere deficiente. E però poi gliel'ha fatto scrivere 100 volte, esatto, sul diario, da firmare al padre. Il padre ha detto è dovuto andare dagli psicologi mio figlio, per cui si è sentito umiliato. Perché ride? Non voglio assolutamente discutere sui problemi del bambino. Ha 11 anni comunque, piccolino. Però rappresento agli ascoltatori, perché si vuole fare un casus, che per espresse indicazioni del padre questi danni psicologici del bambino sono collocati temporalmente ben 4 giorni prima dell'evento. Cioè nella querela, nell'esposto, si fa riferimento a un 24 gennaio. Cioè, è andata dal psicologo prima del bambino, esatto. Comunque il padre ieri in una dichiarazione alla stampa ha detto mio figlio ha sbagliato, però così non si fa, cioè voglio dire, un'umiliazione di questo genere poteva risparmiarsi, cioè è stato un atteggiamento violento, ecco, questa è la difesa, cioè non è che giustifica il gesto di suo figlio, avvocato. Ma devo dire che è la prima volta che glielo sento censurare in 5 anni di processo. Questo non si è mai verificato. Noi abbiamo dovuto fronteggiare un'accusa violenta, devo dire, rivolta non solo nei confronti della professoressa, ma anche nei confronti dell'allora preside della scuola. azione che però è naufragata nel suo nascere, perché è stata archiviata immediatamente la posizione della preside. In ogni caso, Marcello D'Orta, intanto posso iniziare con un filo di ironia, perché tra l'altro c'è da dire che questo bambino di 11 anni ha scritto: io sono deficiente, dunque non un io sono deficiente 100 volte, scrivendolo senza i, deficiente, senza, non deficiente, quindi si potrebbe fargli scrivere 100 volte sono ignorante, ma al di là di questo, vabbè. Che dire, dice, allora questa professoressa si è fatta prendere un po' la mano oppure Io direi che in questa storia senza dubbio più penalizzato resta il bambino, e resta il bambino per due motivi, sia nei confronti del padre che nei confronti dell'insegnante, è doppiamente penalizzato, e cerco di capire, di spiegare che cosa voglio dire con queste parole. Il genitore naturalmente dal suo punto di vista ha fatto bene a difendere il figlio, ma anche qua c'è stato una sorta di abuso di protezione, chiamiamolo così, non so se esista questa denominazione dal punto di vista forense, ma io la chiamerei abuso di protezione, e cioè oggi come oggi i genitori, qualsiasi cosa faccia l'insegnante, ma io le parlo anche di una sgridata, di una ramanzina, di una sospensione, immediatamente ricorrono alle maniere forti. Certo. Le maniere forti quali sono? In primis, per esempio, il TAR. È chiaro. Il quale 9 su 10, per non dire 10 su 10, dà ragione ai genitori. Ora, perché penalizzato il bambino? Perché un alunno che di continuo si sente spalleggiato dal genitore, perde dei confronti della scuola, dell'insegnante, del preside, perde praticamente, come dire, un po' quel senso di dovere, perché sa che alle spalle c'è un papà che a un certo punto interverrà per lui. Questa non è un'azione educativa. Guardi, io ricorderò scolpita, ho fatto alle medie i salesiani, ricorderò scolpito il terrore di un mio compagno che, minacciato di una nota da parte del professore, disse: professore, in ginocchio in lacrime, non mi dia la nota, sennò il mio padre mi piglia a cinghiate a casa. Ma la situazione si è capovolta a partire dal 68. È chiaro, adesso si pigliano a cinghiate i professori, cioè si benissimo, va a scuola. Benissimo. E dunque il bambino è penalizzato perché così non si educa un ragazzo. Detto questo, vorrei anche dire che è penalizzato però poi nei confronti della maestra, perché o scrivere sono deficiente, nel senso letterale vuol dire che ho mancanza verso qualche cosa, c'è un deficit, ma io che ho insegnato per tanti anni, io so che la maestra, credo di poter dire che la maestra, quando gli ha fatto scrivere sul deficit, gli deve dire tutto sommato sono un imbecille. Risulta senso, più che un insulto, cioè non è lessicalmente deficiente. E quindi è penalizzato nei confronti dell'insegnante che a mio giudizio non avrebbe dovuto fargli scrivere quella frase. Voglio ricordare che il famoso maestro Alberto Manzi, quello che tutti quanti noi abbiamo ammirato ed amato, posso dire, della trasmissione degli anni 60, non è mai troppo tardi, continuò a fare l'insegnante nonostante il successo. Egli si rifiutò di fare le cosiddette schede di valutazione, passando dalla valutazione numerica, quindi quella classica, 6, 5, 4, 3, 2, che fissava semplicemente come giudizio una prestazione scolastica, cioè ho fatto il compito di matematica, mi è andato bene, gli do 7, gli do 8, ho fatto il compito di matematica, è andato malissimo, gli do 2-3, ma non andava a ledere, come dire, la personalità. Lui era convinto che un giudizio psicologico dato da chi comunque non ha gli strumenti per farlo, perché il maestro non è uno psicologo, a un certo punto poteva addirittura, come dire, andare a creare delle turbe, ma intanto fatemi sentire cosa ne pensa qualche ascoltatore. Sono tantissimi messaggi, stanno arrivando, c'è chi dice ha sbagliato, c'è chi, la maggior parte di voi dice no, ha fatto bene la professoressa, è esagerata la reazione del padre. Antonio da Bari, buongiorno, che dice? Antonio, 34 anni, è contento di essere appartenuto a quella generazione che aveva ancora quei professori e quelle maestre severi che avevano il compito di educare. Ma magari sono severi, cioè sono sicuramente severi anche adesso, è che devono fronteggiare le ire dei genitori se sono severi. Quello che diceva il professore poco prima, noi non eravamo assolutamente spalleggiati. Ma lei che ne pensa? Questa professoressa ha fatto bene a fare scrivere sono deficiente o ha esagerato? Visto visto il quello che l'atteggiamento del ragazzo, io penso che sia una punizione dovuta, quindi dovuta. Io come dire, spalleggia questa cosa. Spalleggio l'atteggiamento. Io la ringrazio Antonio, devo andare alle informazioni sul traffico. Ricordiamo, l'episodio è questo, cioè questo ragazzo di 11 anni insieme a dei compagni ha impedito a un compagno di farlo entrare di farlo entrare nei bagni dicendogli no, tu sei una femminuccia, sei un gay, qui non entri. E poi si è rifiutato di chiedere scusa quando la professoressa se n'è accorta, quindi certamente è stato un episodio di bullismo, di quelli che purtroppo capitano, anche serio, non voleva chiedere scusa e da qui il sono deficiente. Le informazioni sul traffico, rientriamo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, ha detto che l'80% di voi per ora dice no, condanna esagerata. Questa professoressa, un mese di carcere per aver fatto scrivere sono deficiente a un proprio allievo sul diario. C'è chi ci scrive, ha sbagliato la frase, doveva far scrivere io e mio papà siamo due deficienti. Vabbè, intanto voglio sentire che ne pensano. Davide, da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, anch'io ho 34 anni e quindi sono di quella generazione lì, però in più ho fatto le medie in Inghilterra, dove i metodi, diciamo, punitivi erano un po' più tosti, nel senso che io per aver fatto aborte con un bambino e avevo 13 anni, ho dovuto scrivere 2000 volte io non devo più fare abbotte perché è una cosa brutta. Vabbè, che però la frase, è questa è dirimente la frase, io okay. Non devo fare abbotte, non è io... Un'altra volta per aver disegnato i muri, nei muri dei bagni, ho dovuto ridipingere tutti i bagni. E hanno informato mio padre, che non ha fatto assolutamente nulla, anzi mi ha detto che era un cretino, e non mi è venuta nessuna turba, sono cresciuto, anzi non scrivo più sui muri, questo è il discorso. Quindi lei dice questi metodi vanno bene, ecco, e immagino dice è esagerata questa condanna. Grazie Davide. Alberto da Verona, buongiorno. Buongiorno, allora dalla vicenda si evince che sicuramente i problemi li ha il padre di questo ragazzo qua. Vabbè, adesso... Però la cosa più avvilente, e questo mi richiamo alla giustizia italiana, è che un magistrato abbia inflitto un mese di carcere a questo povero insegnante. Va bene, volevo dire io. Alberto, grazie. Avvocato Visconti, c'è da dire che in primo grado la sua cliente era stata assolta, no? E sì, poi c'è... è stata assolta e con una sentenza che è stata... letta contestualmente nella parte emotiva, cioè il magistrato è uscito dalla Camera di Consiglio esponendo anche i motivi della sua decisione, a differenza di quanto sta succedendo in Corte d'Appello, dove non solo si sono presi 90 giorni per il deposito della parte emotiva della sentenza, ma addirittura si sono ritirati in Camera di Consiglio dopo 2 anni dalla discussione fatta dalle parti. Cioè siamo stati 2 anni, e sono trascorsi 2 anni da quando le parti hanno esposto le loro ragioni, sì. E qui si afferma il principio della oralità del processo penale. Senta, ma mi faccia capire, sì. Perché le motivazioni non sono ancora appunto depositate, però se avesse fatto scrivere invece che io sono deficiente, io ho sbagliato col mio compagno, questo avrebbe fatto differenza, no? Immagino. Ma sicuramente nella accezione psicologica di chi legge, ma non nella sua funzionalità. Il ragazzo che ha fatto scuola in Inghilterra gli hanno fatto scrivere io non devo fare abbotti. La professoressa gli ha fatto scrivere che non deve essere mancante di quella solidarietà e di quella anche capacità. Capito, mancante, ma un bambino che legge deficiente, cosa vuol dire? Come dire, ecco. Come dice il professore D'Orta, lo percepisce come sono un imbecille, sono uno stupido. Questa è una funzione collaterale. Se si fa una lezione su questo, è la funzione didattica dell'insegnante. Se poi discutiamo sull'opportunità o meno del mezzo, bene, spostiamo i termini, è penale, è di rilevanza penale o è stato inopportuno? Credo che là si dovrebbe un po' distrarre. No, ma su quello sì, guardi, sulla condanna io posso dire, ma è una follia, da un mese di carcere che fortunatamente non farà, voglio dire, al limite uno può, che ne so, non sono avvezzo al codice, ma dare un altro, ma un mese di carcere per aver fatto una cosa del genere, mi sembra veramente una follia, io una non follia, lo posso dire. Vabbè, no, lo dico io, non si preoccupi, dica che un conduttore deficiente ha detto che è una follia e quindi lo porti in Cassazione. Giovanni da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica Giovanni. Buongiorno, senta, posso intervenire nella discussione perché mi sembra che ci siano degli aspetti davvero abbastanza strani in questa Italia. arriviamo persino a contestualizzare la bestemmia e non riusciamo a contestualizzare l'esasperazione degli insegnanti che alle volte hanno a che fare con dei ragazzi e verso i quali devono sopperire l'educazione dei genitori. Sì. Lei, rendiamoci conto di questo fatto. Il tema è se si può sopperire così, cioè se il metodo è questo per sopperire all'educazione. Ma capisco che ci sia stata dell'esagerazione, su questo forse non ci piove. Io probabilmente avrei inserito una lezione in classe per capire un attimino che cosa bisogna fare. Ma dice che, Giovanni dice il nostro avvocato che ha fatto anche una lezione. In ogni caso, io la ringrazio. Vorrei, Marcello D'Orta, questa idea che ci dice l'ascoltatore da Bergamo è interessante. Gli insegnanti a volte devono sopperire all'educazione che i genitori non riescono a dare. Ma è anche questo il ruolo, o ci si sostituisce impropriamente alla famiglia? Dopotutto, uno cresce nella famiglia che ha, insomma, deve fare i conti con questo. Sì, però la realtà è che veramente quando dei ragazzi arrivano a scuola in condizioni, vuol dire, quasi estreme, nel senso che sappiamo bene oggi la famiglia che fine sta facendo. Questi ragazzi arrivano senza educazione, lo scopo ultimo della scuola non è soltanto quello di insegnare, ma è anche quello di educare. Da quando è nata la scuola è stato così. Educare vuol dire anche non sostituirsi al genitore, ma certamente lavorare insieme ai genitori. Io sono anche dalla parte dell'insegnante, perché ho insegnato tanti anni anche in zone assolutamente toste come Secondigliano, Forcella, eccetera. Quindi so che cosa succede in classe. Lei non ha mai fatto una punizione del genere? No. Il fenomeno del bullismo è in netto aumento, quindi capisco anche l'esasperazione dell'insegnante. Diciamo che in questa storia hanno esagerato in tre. Ha esagerato il ragazzo facendo il bullo, ha esagerato la maestra facendo scrivere sono deficienti, ha esagerato il genitore denunciando. Anzi, diciamo che hanno esagerato in quattro, perché poi ha esagerato anche pure, pure il giudice. Esatto, anche il giudice. Quindi salviamo solo il nostro avvocato, Visconti, che è qua, solo lui per ora sta difendendo. Avvocato, come finirà questa vicenda? Tanto la sua assistita è in pensione, credo, no? Non insegna più. Amaramente è in pensione. Amaramente perché? Perché dice ha finito la carriera così, con queste pensioni. Si aspettava un sostegno diverso dalle istituzioni. Perché le istituzioni? In che senso? Cioè, quale importante rappresentazione delle istituzioni è la magistratura? Dalle istituzioni la magistratura? Sì, si aspettava un sostegno, non dico una pacca nelle spalle, è un brava, però chiunque abbia avuto lettura della sentenza di primo grado si trova di fronte a un fatto perfettamente contestualizzato, per riprendere le parole di chi mi ha preceduto, perfettamente contestualizzato, è valutato rispetto proprio a una scolaresca che ha assistito al comportamento di questo ragazzino e di altri, verificando che gli altri hanno chiesto scusa e lui no. E la differenza chi la deve fare? Su questa domanda intanto ci sarà la Cassazione, ovviamente anch'io mi auguro che rientri tutto dal punto di vista penale. Vi ringrazio, l'avvocato Sergio Visconti, avvocato della professoressa Giuseppa Valido, che è la protagonista, una delle protagoniste di questa vicenda, così come Marcello D'Orta, grazie per essere stati con noi. Che dire, tutto continua su Facebook, 24 mattino ci trovate, continua anche questa discussione, mamma mia quanti messaggi che sono arrivate, telefonate anche in redazione, e quindi insomma, ma si sa, quando si tocca questi temi è sempre molto interessante. Un ringraziamento come sempre ad Alessandro Longoni in redazione con Elisabetta Fusconi, e Filippo Aureggi oggi sostituisce la nostra penna nera d'alpino, Peter Bescapè in regia. La linea va come di consueto a Oscar Giannino e noi ci troviamo lunedì alle 7:20.